Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Fortopia, dall'omonimo libro, lettura a cura del centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino. L'entrata è stata memorabile. Sfilata la catena e risuonare di corpi gioiosi, vocianti, un canto forse solo ritmato uno slogan, un'energia travolgente. Attraversare il ponte, oltre le sbarre del grande cancello, è stato come uscire da un'apnea e respirare a pieni polmoni. Un atto di grande libertà per i corpi e le menti in una delle ultime generazioni di ribelli. Un atto di sopravvivenza e resistenza insieme. Attraversamenti collettivi, molto oltre i tunnel, le piazze d'armi, i terrazzamenti, i tracciati sotterranei che collegavano la città e che si svelavano al passaggio, nell'esplorazione. Abbiamo iniziato a seminare, dal primo giorno, di tutto. Scoprivamo spazi e seminavamo forme, cultura, relazioni, cambiando colore e musica al presente. E c'era euforia. Un'energia potente e creatrice che prendeva la forma di manufatti, eventi, relazioni e culture. Il cambiamento del nostro quotidiano riempiva di significati nuovi il nostro agire nella vita. Su, su, su verso l'alto, verso il cielo aperto, lasciando a terra un mondo odioso, avido, violento, corrotto e ingiusto, a riprenderci la speranza di una vita migliore, il diritto alla libertà e un posto dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno. Il forte era anche questo. Tanti piccoli, infiniti momenti di felicità comune, indimenticabili. Il Forte, una struttura che ha ospitato un sogno chiamato Vita Libera e Metropoli. Erano gli anni 90. Io ero poco più che ventenne, iscritto a sociologia, con una vita che bruciava. Il Forte, in un parco da terzo paesaggio, che entrava in una centocelle ex borgata che scendeva per la Prenestina, dove alle colonne d'Ercole della tangenziale est diventava mondo. Editoria indipendente, telematica sovversiva, avvisi ai naviganti, Thorazin, i rave, i concerti, i dibattiti, street parade, rassegne, festival cinematografici, cultura queer, consumo critico, il diritto alla festa. Vivere gli spazi più umidi, per fare riunioni, con trappole per topi tutto intorno, diventava questione di impura eleganza. Quel sangue sporco che rende accesi, ricchi, fisici, estatici. Iniziativa, sottoscrizione, turni, le scalette, il cancello, piazza d'armi, sala macchine, cucina, birreria, dormitorio, musica forte, la cattedrale, la polveriera, la sala cinema, l'infoshop, la sala da tè, il teatro, palestra, casetta, il boschetto della mia e della tua fantasia. Un sistema ontologico che si rifrange nell'attualizzazione del menù scritto col gessetto nella lavagna della cucina. Come faccio io a raccontare, riuscire a far vivere con gli occhi miei tutta sta roba? La prima volta era il 1996. Prendevo il treno dalla Maremma e la potenza del primo maggio al Forte Prenestino si presentava col buongiorno a noi ragazzetti a 200 km di distanza. Ho visto abbastanza quel giorno da pensare che quel posto era un sogno che si realizzava anche se non avevo mai avuto la fortuna di sognarlo io un posto così. Un modello altro. Se le cose brutte e ingiuste su sto mondo sono tutte collegate, Allora cominciare a cambiare da te stesso e da ciò che ti circonda, dalle scelte su cui hai un effettivo potere decisionale, poteva essere una soluzione. Oggi ancora me lo chiedo se questa può essere una soluzione. Anni di sogni, di lotte, di batoste, di giornate piene di senso e di giornate inutili e frustranti, giorni tristi e giorni memorabili. Sono più grande e più disincantata, e se la speranza è una trappola, io non penso più a una possibile soluzione, ma all'unico modo di vivere che non mi veda complice di ciò che odio, che lascia ancora spazio libero e autogestito, fosse anche solo per sognare. Forse per questo sto ancora qua. Forse per questo non sono sola. Santo il forte che sta sulla Prenestina. Santo! Santo il generale che lo volle costruire, santo. Santo! Santo il generale che lo lascio vuoto. Santa! Santa, santa la discarica che diventò. Santi! Santi i barboni e i clochard che l'abitavano. Santi! Santi i drogati, i teppisti, i vandali, i coatti. Santa! Santa la festa del non lavoro. Santi! Santi quelli di Vuoto a perdere e gli altri di Centocelle. Santi Bloody Riot. Santi i compagni e le compagne. Santi. Santi gli autonomi, gli hippie e i punk che si portavano dalle borgate fave e pecorino. Santo. Santo. Santo. Santo chi si fece strada tra i rovi per esplorare il forte. Santo. Santo. Santo. Santo il primo maggio del 1986. Da allora tutto è santo. Ogni giorno degli ultimi 30 anni è santo. L'assemblea di autogestione è santa, e santi tutti coloro che hanno varcato nel tempo quel ponte levatoio che dà accesso a un mondo parallelo, psichedelico, supersonico, erotico ed estatico. Santo. Santo. Santo. È la prima rassegna di cinema all'aperto del Forte, al di là del ponte levatoio. Una pellicola affittata, un vecchio proiettore prestato, io, proiezionista improvvisata, e un pubblico ampio di giovani punk. Il film Miracolo a Milano di Vittorio De Sica, 1951. Desideravo condividere l'amore per questo film e il libro di Zavattini, Totò il buono, ma il dubbio sull'opportunità della scelta mi agitava un po'. Racconto delicato della vita di una comunità di baraccati, lontana dalla città chiusa e strana e soffocante, una comunità povera ma fiera della sua autonomia, capace di gioia bambina davanti a un tramonto, inventrice di straordinari modi di sopravvivere e di utilizzare le risorse più imprevedibili a difesa della propria libertà personale e collettiva. Ci siamo innamorati e riconosciuti subito in quella pellicola. Era nell'aria, nei commenti, nei volti. E nel finale bellissimo abbiamo partecipato agli eventi con la stessa gioia e manifesta felicità. Anche noi, in quel volo a cavallo di scope, per sfuggire blindati, su, su, verso l'alto, verso il cielo aperto, lasciando a terra un mondo odioso, avido, violento, corrotto e ingiusto, a riprenderci la speranza di una vita migliore. Il diritto alla libertà è un posto dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno. Il Forte era anche questo. Tanti piccoli infiniti momenti di felicità comune, indimenticabili. Una costante migrazione, uno spostarsi con il tempo in luoghi sempre nuovi, luoghi della mente ma anche del corpo. Il viaggio può rappresentare la metafora del Forte. Poche certezze, come le poche cose essenziali che porteresti con te, sapendo che le potrai perdere, logorare e che sicuramente cambieranno. Devi essere aperto per viaggiare, ma anche avere lo stomaco forte. Quello che vedi e vivi a volte ti pone di fronte a scenari e situazioni lontane dalle tue, eppure la voglia, il bisogno di muoversi incalza con la sua soggettività sfrenata, qui ed ora. Viaggiare è una prova per l'ego di ognuno di noi. È stata questa la scommessa, costruire una torre di Babele dove la diversità fosse il punto di forza della sua crescita. Negli anni 70 c'era una canzone di Corrado Sannucci che parlava di una coppia che al risveglio del mattino va insieme, quasi in corteo, verso la caffettiera, come verso la rossa primavera. Fanno il caffè insieme, uno apre la caffettiera, l'altro mette il caffè e così via, alternandosi in esaltata comunanza. Risultato? Il caffè è una schifezza. Il ritornello era: il nostro rapporto è bello, teoricamente giusto. Se il caffè è una schifezza, è praticamente giusto. Per fare insieme non basta il teoricamente giusto, né pensare di conoscersi, ci vuole di più. Senti ragazzuolo, ma tu sei di qua? Beh, perché, che c'è? Sto a cercare un certo Massimo. E capirai, qui so 100. Sì, ma questo suona, è un DJ. È sempre 100 so. Ah. Sono un occupante del forte dal 1995. Quell'anno Rutelli, sindaco di Roma, pensò di fare un po' di soldi mettendo all'asta uno spazio liberato. Ah, come si era sbagliato. A dirglielo a chiare lettere fummo 100.000 pazzi, con una grandissima manifestazione piena di gente, musica e colori. Quella incredibile moltitudine che invase le strade della capitale non solo riuscì a stoppare l'asta, ma diede anche inizio a un modo completamente nuovo e dirompente di attraversare la città. Era appena nata la lunga e intensa stagione delle street parade, a Roma e non solo. Io avevo 20 anni, il forte già lo frequentavo da un po', avevo anche partecipato ad alcuni progetti interni, ma fu solo grazie alla campagna Stoppa l'asta che mi sentii chiamata in causa in prima persona. Gli allora occupanti del forte avevano chiesto a tutta la comunità che lo attraversava una partecipazione attiva e in molti rispondemmo all'appello, con la gioia e l'entusiasmo che si respiravano in quegli anni. Era la prima volta che mi sentivo parte di quella macchina complessa. Sentivo che il forte era di tutti quelli che lo amavano, volevano costruirlo e autogestirlo, e io ci volli mettere del mio. Da quel momento in poi non me ne sono più andata. Assemblea di gestione. Ogni lunedì da 30 anni. Ogni lunedì? Oh, ogni cazzo di lunedì da 30 anni. Hai idea di quanti lunedì ci sono in 30 anni? Più di 1000. Oh, sono una cifra. Veramente, per la precisione, sono 1565. Vabbè, so sempre una cifra. E certo, so di più. È un posto tosto l'assemblea di gestione, per chi l'affronta per la prima volta e per chi la vive da lungo tempo, per motivi diversi, chiaramente. Ammazza che emozione! Ammazza che palle! L'assemblea è il mezzo che ci siamo dati per affrontare le discussioni e prendere decisioni. Non a maggioranza, ma trovando il punto di unione delle varie differenze, raccontandosi, ascoltando, mettendo insieme i pezzi che compongono l'insieme. In teoria dovrebbe essere un luogo-tempo bellissimo, in cui tutti, tutte, si decide quale direzione prenderà il nostro cammino. Invece spesso è una stanca, confusa rappresentazione del nostro ego. È tosta la gestione, è difficile, soprattutto quando cerchi di trovare la sintesi comune. Siamo differenti, diversi, umani. E se il metodo non è rigoroso, determinante, felice e condiviso, tutto diventa ancora più difficile. Quante volte siamo andati via nella notte, insoddisfatti, dopo ore di parole senza alcuna decisione? Oppure quante decisioni prese sono rimaste soltanto parole, ma nessuno può venirci a dire che non ci proviamo. Testardi, cocciute, costanti, inesauribili, il tentativo è ancora lì, lunedì dopo lunedì. Tutti questi cani. Arrivavi e trovavi cani. Dove ti giravi, cani. Ero lì per partecipare alle riunioni della BBS e nella piccola stanzetta piena di fumo erano tutti cani. Mi innamorai subito di quel cane. Entrai per la prima volta in due mondi, il mondo che si definiva IRL, in real life, nel quale si viveva quotidianamente, e quello digitale al quale si accedeva tramite cane telematico. Entrambi i cani erano condivisi. Era un'allucinazione collettiva, alternativa e possibile. Eravamo cybercani e di quel cane, quando arrivavo al forte, sentivo l'odore anche se era lontano. Ci odoravamo a distanza perché da vicino sarebbero state botte da cani. Assemblee interminabili nel corso delle quali mi perdevo a guardare strani arabeschi di cani che emergevano dalle irregolarità dei muri. Al forte mi dedicavo al cane della telematica sovversiva. Sentivo che era un cane importante, condividere saperi senza generare cani. Era proprio quello che accadeva in quel posto di cani, ed è quello che accade ancora oggi, perché il cane è sempre uguale, non cambia mai. La mattina tornavamo dalle feste di cani illegali e il sole ci baciava in piazza d'armi, le foto venivano tutte bruciate come i nostri cani. Eravamo cani innamorati del nostro vomito psichedelico proiettato al ritmo di cani tecno nei cani catodici della mente. Era una vita dura da cani. Il freddo penetrava i cani e noi nei tunnel gelidi montavamo cani corrugati, con negli occhi la visione di un cane transoceanico. Ho imparato molto con i cani per vivere meglio la mia vita cane, come quando spostai distrattamente il catino dedicato all'acqua dei cani e l'Oz mi rimproverò gravemente. Quella volta capii quanto ogni cosa abbia la sua ragione, il suo equilibrio e il suo cane. Notti intere trascorse a far uscire ed entrare cani, 3.000 cani, uno scudo, se non ce l'hai va bene, ma se ce l'hai lasciale, e ogni volta, ogni alba, ogni mattino, quando anche l'ultimo cane aveva trovato il suo posto, io me ne andavo, tornavo a casa nella notte o all'albeggiare, perché il forte prenestino, se è davvero un cane, allora è il cane che non c'è. Testo liberamente ispirato alla signorina Richmond comincia ad averne abbastanza di tutti questi cani di Nanni Balestrini. Le tavolette, il taekwondo in una serata speciale al Forte, di Anna Maria. Dei tanti modi in cui ho vissuto il Forte, ho scelto di raccontarne uno. Lo dedico a tutti, in particolare al gruppo di allievi del taekwondo. Quella sera la ricordo così, non so se è proprio una ricostruzione fedele, ma sicuramente ci va molto vicino. Fanno paura, sono dure, terribilmente di legno. Le spaccherete domani alla dimostrazione di taekwondo nel piccolo ma capiente teatro del Forte. Tutti finalmente vedranno cosa combiniamo in quella palestra e quanto siamo bravi. Ho spiegato che la rottura dipende dalla perfezione del calcio, da come lo carichi, dal movimento del bacino e dalla posizione del piede. Non c'entra quanto sei grosso e cattivo. La tavoletta la rompi se sei preciso e potente. Così come il combattimento non lo vinci se sei meno di più, ma se sei intelligente, veloce, generoso e capace di dare calci ad una frazione di secondo. Io sono la maestra, ora non insegno più il taekwondo al Forte Prenestino, ma sono sempre la maestra, perché sono stata la prima a insegnare calci e pugni nella palestra del Forte. Ma la cosa più bella che ho insegnato è stata la rottura delle tavolette di legno. Romperle è spaccare il muro che frena il cuore, scoprire il coraggio e la volontà di fare in tutte le situazioni della vita. Al Forte nei primi anni 90 un gruppo di donne inizia un percorso di autodeterminazione. Una serie di incontri portano alla realizzazione di iniziative che hanno come obiettivo la lotta al sessismo. Concerti, dibattiti, spettacoli teatrali creano un fermento di idee che si concretizzano in alcuni passaggi fondamentali: la creazione di uno spazio che possa essere sia una fonte di autofinanziamento che un luogo di incontro per confrontarci sui temi riguardanti lo specifico femminile. Nasce così la Sala da Te, che ha ospitato iniziative, spettacoli e assemblee cittadine. Il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di donne ci convinse a spingerci più avanti e fu così che realizzammo un laboratorio di grafica dal quale uscirono le agende delle donne. La prima agenda, Memoria 95, nasce dall'esigenza di traghettare verso le nuove generazioni la memoria storica delle lotte del movimento femminista, che si stava perdendo e veniva spesso travisata. La seconda agenda corporea, uscita nel 97, metteva al centro il corpo come crocevia e punto di incontro delle definizioni e delle contraddizioni di genere. L'esperienza delle donne del Forte è stata breve, ma ha avuto molti pregi, tra cui quello di sperimentare un percorso di autodeterminazione che ha permesso di far vivere in modo forte le tematiche dello specifico femminile, creando interesse, entusiasmo, contraddizioni e soprattutto partecipazione attiva di donne che parlano di se stesse senza restare ai margini della vita collettiva. Forte Prenestino, 96? 97? 98? Era un sabato sera! C'era il rave legale? Non lo so dove, non me lo ricordo bene. Meeting point proprio al Forte. Partimmo tutti e tutte, era un fessone. Dai, andiamo! Uscendo per ultimi, chiudendo il cancello, ci venne l'idea di lasciare aperta la parte alta del cancello. Dici quella apribile per i camion o i furgoni? Perché così la mattina che tornavamo potevamo entrare senza chiavi. Dove? Oh? In sala after. Sì, proprio quella saletta tutta insonorizzata con i Technics già montati. Cassoni all'angolo, i subi rompenti, non sballo, vero, senza paragoni, tutta per noi. E poi che te lo dica fa? Là dentro, tornati dalla nottata. La domenica mattina, scavalcando il cancello principale in punta di piedi, in un silenzio d'un bale al Forte, solo noi. che bello, tutti a rave, ancora sfattonà. Noi no. Noi imperterriti di entrare nella saletta per farci l'afferino in solitaria. Oh, ma vai, ricordate quella saletta, sì? Quella vicino al teatro, sì? Bella, scura, dove non ce ne potevi fare gli afferini belli belli, non ci rompeva il cazzo nessuno che lo svegliavamo. Manco Nino. Scavalcavamo pure quella perché c'era mezzo portone aperto. Bello, bello. Riccardì, accendi il finale, dai, attacca tutto. Metti i dischi che stanno già là. Cicalo, dai, acchitta. Andiamo, famo l'afterino, forza, Don Massì. Bello. Rimaniamo fino al pomeriggio inoltrato. Sto ballando. Aspettando gli altri che tornassero dal ritmo. Grazie di esistere, forte prestino. Maestra, ma senti un po', mi racconti del forte? Il forte? Il forte non esiste, è solo il sogno di un pazzo. Non esiste, è un pazzo, ma se fanno la serata venerdì coccoso, come si chiama che suona? Ma poi maestra, lo sanno tutti che è lì che hai trovato la luce, perché non mi racconti com'è successo? Che ti devo raccontare? La favoletta del posto magico in una città impossibile alle prese con il tragico sfacelo di un mondo già variato tempo prima, di quel tempio sacro di Roma Est tipo Tempio Shaolin de Cento Celle. No, sarebbe impossibile da raccontare. Come dicono gli antichi saggi, dell'illuminazione non si può parlare, è solo esperienza pura, la devi provare. La vera rivoluzione, figliolo, è quella dentro noi stessi. Non possiamo ambire a nient'altro che cambiarci, scardinarci ed evolverci. Il forte ti mette da subito alla prova. Ti devasta, ti annienta, ti calpesta, ti uccide senza fare nulla, lasciandoti essere quell'impiastro che sei. Laggiù acciacchi la merda con le scarpe nuove, ti caca in testa il piccione appena ti sei fatto la doccia, ti pisciano addosso i cani e ti accannano i tuoi amici, compagni, fratelli, amanti, quando più ne avrai bisogno. E se nel tuo procedere annaspando tra mille cazzi avrai bisogno di una mano, ecco, la troverai lì, dove è sempre stata, in fondo al tuo braccio, come nelle arti marziali. Minchia, maestra, e che è? Un campo punitivo, tipo lavori forzati, una guerra. Ma è giusto così, è allenamento, è condizionamento, come nel Kung Fu. Se vuoi arrivare in profondità, è dentro di te che devi scavare. La prima cosa che il forte uccide è l'entusiasmo. La seconda, i tuoi sogni. Ma è tutta propedeutica. Niente è lasciato al caso. Si deve fare strada per schiacciarti l'ego, il nemico numero uno di ogni collettività e con causa della morte di ogni buon progetto. Le idee, la fantasia, la creazione e la costruzione finalmente collettive a disposizione di tutti per uno scopo grande, alto. A tutto ciò devi accordarti, legartici e tendertici insieme per suonare all'unisono come corde di pianoforte. Ma scusa maestra, allora tutti quelli che sono stati al forte hanno trovato la luce? Mo so tutti pianoforti. Magari, anzi, alcuni hanno trovato il buio, altri si sono persi, altri lo vivono come il centro sociale che in effetti è, e rimangono in superficie, al massimo soppifferi. No, vabbè, dai, magari sassofoni. Ma se vuoi essere pianoforte, se vuoi suonare la più sublime delle canzoni, devi lasciarti prendere dal demone, devi farti annientare, devi buttarti in quella follia collettiva. Se non ti uccide come eri prima, non potrai mai rinascere. Solo dando tutto avrai tutto. E se non te lo vivi è impossibile spiegarlo, è impossibile capirlo. Quindi non so proprio che raccontarti, caro mio. Come nel Kung Fu, puoi solo praticare, è inutile parlare. La prima cosa da fare era raccogliere le prime 5.000 lire. Le seconde 5.000 lire erano per l'ingresso. A volte bisognava fare la fila, a volte, come per il concerto dei 99 posse, siamo stati costretti a entrare a scaglioni, che lì il ponte levatoio non reggeva il peso di tutta la gente. A volte si entrava pure gratis. Le terze 5.000 lire erano per una birra, le quarte per due stecche di fumo. Ritornavamo a casa che albeggiava, sulle colline intorno al paese. I am a patient boy. Restituire tutto ciò che è nell'amore, nel delitto, nella guerra o nella pazzia. Spacca il manifesto per il centenario di Antonin. Dico che nelle fognature del forte scorre il sangue di Elo Gabbalo. In cattedrale ti sfiora l'alito di Majakowski. Cuore, rulla come un tamburo.

Sabrina Coda ai sassofoni. Francesco Pitarra, batteria, percussioni. Questo era 35 secondi ancora, Tommy Smith e John Carlos, il sacrificio e la gloria. Grazie per essere stati con noi. Testi e voce, Lorenzo Iervolino. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Donna Carla Campea per presentare la sua mostra Amor Pop, Neo Pop Art Icons a Roma, La Vaccheria, dal 24 gennaio al 24 febbraio 2025. Ben trovata. Grazie, buonasera. Ti presenti questa mostra? La mia è una personale, appunto organizzata alla Vaccheria, che è la casa della pop art romana. Presento una ventina di opere, tutte improntate appunto sulla neon pop art, dove inserisco il neon nella pop art, e questo ovviamente la rende molto più moderna e contemporanea. E utilizzo delle icone, le icone della pop art, quelle più famose. Mi piace proprio perché comunque rappresentano un passato, una storia, ogni personaggio ha qualcosa da raccontare, e è destinato a un vasto pubblico, perché i personaggi, le icone appartengono a ogni generazione, da Topolino a Scarface a Joker. Ci racconti anche un po' del tuo percorso artistico? Ho fatto nel 77 un liceo artistico a Roma, dopodiché frequento altri tipi di studi, ma sempre nel discorso dell'arte, perché l'arte ovviamente ha sempre fatto parte della mia vita, e da circa 20 anni creo gioielli, io sono anche una designer di gioielli artistici, cose scultoree, e solo da 4 anni che, alternando ovviamente gioiello e pittura, mi sono insomma dedicata completamente alla parte pittorica, proprio perché insomma in questo momento sento la necessità di fare cose più contemporanee, più moderne, più vicine al mio modo di pensare, ecco. Com'è stato l'avvicinamento alla pop art? È stato abbastanza casuale, nel senso che mi sono innamorata, e veramente è stato un colpo di fulmine con un'opera che ho visto insomma nel mio atelier che avevo a Via dei Cappellari a Roma. E dopo la visione di quest'opera di Mao, sempre con pop art e neon, praticamente sono rimasta insomma appassionata, folgorata da questo stile, e l'ho fatto mio, fino a che appunto ho cercato di personalizzarlo sempre di più, di portarlo al mio mondo, inserendo anche dei gioielli all'interno delle opere. Quindi sono progetti tridimensionali, perché comunque non solo hanno il neon, ma all'interno hanno anche, oltre a dei pezzi diciamo dei miei gioielli, degli elementi tridimensionali, e quindi è un lavoro un po' anche quasi scultorio, non solo pittorico, ecco. Com'è l'allestimento della mostra? Ci saranno tante opere, ne voglio esporre tante, perché sono opere che hanno bisogno di poca luce, perché sono illuminate di luce propria, e quindi mi piace l'idea di metterne tante, e metterò anche altri oggetti di design che ho sempre realizzato io, oltre a qualche piccola collezione di qualche gioiello che ho fatto nel passato. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più sul tuo lavoro? Potete visionare la mia pagina Instagram, che è carlacampea_art, oppure il mio sito web è www.carlacampea.com. La mostra Amor Pop, Neon Pop Art Icons a Roma, La Vaccheria, dal 24 gennaio al 24 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento all'artista Carla Campea. Alla prossima! Grazie, grazie mille! Con Angelo Pasquini, uno degli autori del libro Gli anni del male. Ben trovato. Grazie, ben trovati. Che lavoro è questo? Gli anni del male è una specie di viaggio nel passato, perché Il Male è una rivista che è vissuta 5 anni tra il 78 e l'82. Quindi sì, per me che l'ho fatta, che l'ho fondata insieme agli altri autori, è stato appunto un ritorno a un periodo giovanile, insomma, avevamo tutti meno di 30 anni. E è anche il risultato di una ricerca che avevo fatto prima, perché 5 anni fa c'è stata una mostra a Roma intitolata sempre Gli anni del mare. Non facevo in tempo a fare il catalogo, e quindi questo è in parte un catalogo della mostra e in parte un libro, perché ci sono interventi importanti, c'è un'introduzione molto bella di Filippo Ceccarelli, ci sono degli altri interventi di Fulvio Abate, di Luca Raffaelli, poi i nostri ricordi di diversi di noi che hanno partecipato al male, che quindi raccontano un po' di episodi. Oltre ai vari interventi c'è altro tipo di materiale, come è strutturato il libro? Il libro cerca di dare un po' il quadro di quello che è stato appunto l'esperienza del mare. Sicuramente un posto di rilievo ce l'hanno i falsi, che in fondo sono stati il nostro cavallo di battaglia. I falsi appunto erano quel gioco che noi abbiamo inaugurato, che era quello di appunto prendere testate di altri quotidiani e falsificarle, inventando delle notizie. Erano delle notizie che in qualche modo o rispondevano ai desideri del nostro pubblico. Ad esempio, abbiamo a un certo punto annullato i mondiali in cui l'Italia nel 1978 era arrivata in semifinale, ma poi aveva perso con l'Olanda, quindi abbiamo deciso di ripetere la partita. Oppure erano appunto un intervento anche in qualche modo politico, per esempio il falso sull'arresto di Ugo Gnazzi come capo delle Brigate Rosse era la risposta a delle inchieste che avevano messo sotto accusa alcuni intellettuali, professori universitari che con le Brigate Rosse non c'entravano nulla, che però si sono fatti alcuni anni di galera. Quindi, giocando su questo appunto paradosso, abbiamo un po' sbeffeggiato quel tipo di inchiesta. E poi naturalmente c'è tutto il materiale dei grandi disegnatori che hanno lavorato al mare: Vincino, Andrea Pazienza, Gese, Perini, Jacopo Fo, Filippo Scozza, Liberatore, insomma è molto ricco di tante immagini. Rimettendo mano a tutto quel materiale, che impressioni ne hai ricavato? Che è stata un'esperienza notevole, un'esperienza che sul piano della satira è stato anche numericamente il più importante giornale di satira del secondo dopoguerra, insomma, anche per le vendite, vendevamo più di 100.000 copie. E poi che in qualche modo è ancora per certi aspetti attuale. Cioè, la cosa paradossale, sono passati 45 anni, eppure gli europei che girano tranquilli con le bombe sulla testa, una vignetta di Vincino che dice europei gente tranquilla, che all'epoca si riferiva ai missili di Pershing, adesso si riferisce a quello che sta succedendo in Europa. Oppure l'invenzione del reddito di cittadinanza, che inventammo in un numero del Mattino di Napoli, 800.000 lire al mese per tutti, e oppure la riunificazione delle due Germanie fatta 10 anni prima con un numero di Welt in tedesco e in italiano. Insomma, ecco, questi erano un po' i nostri scoop. Rispetto all'oggi, visto che il ruolo e l'importanza della satira sono molto cambiati? Rispetto all'oggi, un giornale come Il Male non avrebbe molto senso, intanto perché la stampa ha perso la sua rilevanza e noi giocavamo molto sulla parodia della stampa, insomma. Quindi proprio quel tipo di satira cartacea che facciamo noi non esiste più, o comunque dovrebbe essere molto diversa. In più c'è un'altra cosa: noi eravamo molto duri, molto cattivi nella nostra critica, nella nostra satira, ed eravamo molto sequestrati e molto denunciati. La differenza è che appunto allora avevamo dei direttori responsabili che prendevano delle querele, che andavano incontro a dei processi e subivano quel tipo di procedimento. Adesso invece la querela è una querela soprattutto economica, dove si chiedono subito dei soldi. Il potere ha creato queste nuove leggi che in qualche modo sono una legge bavaglio, e quindi un giornale come Il Mare non potrebbe esistere perché verrebbe subito sommerso di richieste milionarie e quindi non ci sarebbe più lo spazio di libertà, tra virgolette, che avevamo. Rispetto ai materiali d'archivio, com'è stata la scelta? Abbiamo cercato di scegliere i più belli, abbiamo cercato di scegliere le cose più efficaci, che parlano ancora, che raccontano ancora, che non sono legate a un mondo ormai scomparso, in parte e inevitabilmente, però quel materiale che ancora può dire qualcosa non solo a quelli che hanno la mia età o che comunque erano degli acquirenti del male, ma anche ai giovani. E abbiamo notato che, insomma, per esempio la mostra che facevamo 5 anni fa fu frequentata molto dai giovani. Ecco, questa la speranza è che possa ancora parlare alla nuova generazione. Libro Gli anni del male, un saluto e un ringraziamento ad uno degli autori, Angelo Pasquini. Alla prossima! Grazie, grazie a voi. Siamo al momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali più in generale con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti. E allora, dunque, andiamo a vedere un po' cosa ci offre questa settimana. Attenzione, perché insomma andiamo un po' in fretta, che c'è un sacco di piccole cosine interessanti, piccole grandi cose, insomma. Allora, andiamo un po' subito a vedere. Partiamo dal Teatro Tor Bella Monaca, che chiude gennaio e inizia febbraio con due spettacoli. Il primo è una Lady D, dedicato chiaramente alla principessa più amata del mondo, morta in circostanze tragiche un bel po' di anni fa, la principessa del Galles, Lady Diana. In scena ci sarà Annalisa Favetti, che appunto interpreta il ruolo del personaggio, da titolo, e la regia è Pino Amendola, che sarà anche lui in scena in questo testo appunto dedicato. Dal 31 gennaio invece al 2 febbraio La cosa giusta di Davide Conati, la regia è di Giorgio Caprile, che sarà in scena anche insieme ad altri attori, e tratta di questo, cioè un giorno all'improvviso una vita tranquilla, un'esistenza perfetta viene inghiottita da una scelta da fare tra due possibili: lasciarsi andare con tutte le forze. È la storia di Alberto, un imprenditore di successo che finisce insomma nel giro della criminalità e non sa che fare. Quindi è una storia di scelte, questa che dal 31 gennaio al 2 febbraio va in scena al Teatro Tor Bella Monaca. E dunque allora procediamo al Teatro Lo Spazio. Andiamo a vedere questa settimana un lavoro scritto e diretto da Goffredo Maria Bruno, che sarà anche in scena insieme ad altri attori, che si chiama Il Covo. Sono quattro sequestratori improvvisati, male organizzati, insomma un po' alla solita ignoti, che però insomma è un furto e non un sequestro. In ogni caso decidono di mettere a segno il colpo della loro vita: sequestrare un alto funzionario iraniano per rubargli documenti segreti di grande importanza. E diciamo che forse questo testo qui, in questo periodo in cui si parla di Iran e di segreti militari violati e tutto quello insomma che è stato attorno alla reclusione, al sequestro di Cecilia Sala proprio nello stesso Iran, mi sembra insomma interessante. 30 gennaio 2 febbraio Il Covo di Goffredo Maria Bruno. Procediamo allora. Al Teatro dei Servi invece La foto del turista, Vincenzo Volo, Giovanna Criscuolo, con la regia di Federico Magnano Sanlio, vanno in scena con questo La foto del turista, che è un atto unico per due attori, comico ma allo stesso tempo anche insomma con un'atmosfera intensa. C'è un incidente di percorso che racconta la storia di questi due personaggi, una donna che parlano ma non si comprendono. È una commedia insomma abbastanza surreale, divertente, che però tocca temi importanti come l'incomunicabilità, la solitudine, che insomma sono tutto tranne che divertenti probabilmente. Quindi questo incrocio tra due stili diversi, l'idea e l'azione, in fondo, dal 30 gennaio al 2 febbraio saranno al Teatro dei Servi. Poi andiamo alla Fortezza Est, 30 gennaio, 1 febbraio, ho rapito Paolo Mieli. No, non sono stato io, non ho fatto niente del genere. Paolo Mieli, il grande noto giornalista che ancora tiene banco, se c'è da dire, e che conduce un programma dedicato alla storia sulle reti Rai. Questa volta insomma è al centro di un altro sequestro, in fondo, anche qui, quindi abbiamo doppio sequestro in questa settimana, quello messo in scena da Diego Frisina, che si occupa della regia con Mario Pizzuti, ma poi insomma scrive e dirige lui stesso, racconta insomma di se stesso in qualche modo, che vuole ampliare la propria visione del mondo e sopraffatto nel senso di impotenza di fronte alla faziosità dei mezzi di informazione decide di fare questo gesto estremo, e cioè rapire il fotogiornalista Paolo Mieli. Ovviamente le cose prendono una piega inaspettata, c'è cioè un'incontrollata reazione geopolitica e insomma ci sarà tante conseguenze che non voglio da anticipare. In ogni caso, divertente questo titolo. Ho rapito Paolo Mieli, 30 gennaio, 1 febbraio, alla Fortezza Est. Poi ancora, andiamo dunque all'altrove, Teatro Studio, dove Federico Malvaldi scrive e dirige questo Hinterland, in scena Veronica Rivolta e Giulia Santilli. Siamo in un vecchio McDonald's di periferia, ovviamente con tutto quello che si può immaginare lì dentro, insomma, tra i tagli di carne scadenti e i grassi saturi attaccati alle pareti, e chiaramente la condizione di chi ci lavora e chi lo frequenta, insomma, giovani squattrinati che non riescono ad arrivare alla fine del mese e si concedono l'illusione di un pasto fuori, un pasto fuori casa. Lea lavora lì ed è uno dei personaggi, e chiaramente entra a contatto un altro personaggio con cui confrontare la propria condizione. Questa è la storia di due donne costrette a spingere l'esistenza in un territorio in cui la realizzazione è molto difficile e sicuramente un po' per pochi eletti. 31 gennaio, 2 febbraio, Hinterland, all'altrove, Teatro Studio. Per quanto riguarda invece la danza, il 31 gennaio al Teatro Palladium in prima assoluta, Roberto Castello Aldes, nell'ambito della stagione Orbita di Spellbound, porta Il sesso degli angeli, nell'ambito della stagione di danza che prende il nome In Levare. Quindi questo lavoro, la coreografia di Roberto Castello, più volte premio UBO, insomma, punto di riferimento della sperimentazione coreografica, è per due danzatrici, Erika Bradini e Ilenia Romano, e nasce da una riflessione polemica sullo stato dell'arte del mondo teatrale contemporaneo, e ironizzare sulla propensione del mondo teatrale a ritirarsi nel silenzio, riposizionamenti nei momenti politicamente più delicati. Quindi una sorta di discorso sull'arte attraverso la danza, tenendo insieme la politica, la filosofia, la psicanalisi. Quindi, insomma, c'è tanta carne al fuoco in questo lavoro di Roberto Castello, che sarà in scena per una sola sera, il 31 gennaio, al Teatro Palladium, al Teatro Villa Torlonia. Elena Arvigo va in scena con il suo Elena di Giannis Ritsos, grande poeta greco, spettacolo da lei diretto e interpretato, in qualche modo anche un po' perché ne porta il nome, ma non è lei stessa l'Elena di cui si parla. Elena è il personaggio mitico della regina di Sparta, moglie di Menelao, che si racconta e viene raccontata non solo la sua storia, ma anche tutto ciò che lei rappresenta, motivo di una guerra, motivo del movimento degli eroi, la Elena prima e la Elena dopo la guerra. Insomma, Elena viene considerata come un elemento simbolico dei ragionamenti che si possono fare attorno alla guerra. Chiaramente Ritsos in questo modo parla anche del suo proprio tempo, parla del regime militare di colonnelli che in Grecia presero il potere dagli anni 60 agli anni 70 e soprattutto, insomma, a fronte degli anni di detenzione nel campo di concentramento di Samo, che lo stesso poeta ha dovuto affrontare. 30 gennaio, 2 febbraio, Teatro di Villa Torlonia per Elena di Giannis Ritsos. Nello stesso teatro però andremo anche a vedere prima, il 28 gennaio, che è oggi, una sinfonia per Weimar, uno spettacolo di Bruno Maccallini dedicato alla, questa che è un po' la settimana della memoria, quindi ci riporta alla Germania pre-nazista, quella di Weimar, la città dove, insomma, venne fondata la Repubblica, che non resse, diciamo, all'impatto con il totalitarismo di Adolf Hitler, cercando appunto di rintracciare i punti salienti, i personaggi più significativi di quel periodo. Quindi questa sera, 28 gennaio, Diva, una sinfonia per Weimar al Teatro Torlonia. Segue al Teatro delle Carrozzerie Not un progetto che va dal 31 gennaio al 2 febbraio e si chiama Ficcherie, cioè la presentazione di alcuni spettacoli della produzione 369 gradi. Vado a segnalare, insomma, dal 31 gennaio appunto al 2 febbraio, quindi sono tre sere, venerdì, sabato, domenica, in cui verranno presentati questo lavoro, questo dialogo sui primi massimi sistemi di Silvio Impegnoso e Lisa Tonelli, scena Maria Luisa Usai, no, chiedo scusa, No, ho segnalato in un modo diverso, chiedo scusa, no, in scena ci sono loro. Maria Luisa Usai è in Campesina, un suo progetto che insomma, scrive e porta in scena, che mescola un po' di teatro documentario e immagine, video e il corpo vivente, insomma, con presenti sulla scena. Ma mi soffermo poco, io invito ad andare sul sito carrozzerienot.com, il 1 febbraio Martina Cavazzana con Rimediare un corpo fallace e poi Michela De Rossi e Cristina Pelliccia con Guilty. Seguirà il 2 febbraio un altro duetto, Francesca Cordioni, Zaratolisco con Titolo Figo e Paolo Lupidi con Fans. Così come no, un trittico a dire la verità, Martina De Santis con Romantica o Romance o Niente. Questo è quello che ci offre la Carrozzeria Notte, sono tanti gli spettacoli, quindi cedo il testimone al sito carrozzerianotte.com per evidenziarli uno ciascuno. Io vi porto anche al Teatro Argo per due serate dedicate 30-31 gennaio al teatro, ma con una proiezione del documentario dedicato al teatro di Antonio Rotella, realizzato da Lucio Fiorentino e la presenza dello stesso Antonio Rotella con il giornalista Sergio Logatto, con cui dialogherà. E poi al Teatro Basilica torna in scena questo lavoro dedicato a Pier Vittorio Tondelli, Rimini, gruppo RMN, Rimini, che è quel nome di compagnia, ma la regia è di Mario Scandale, in scena Giulia Quadrelli, che neanche l'ideatrice, e la drammaturga, insomma, Francesco Tozzi, in scena con Giulia Quadrelli, Chiara Zarco, Leo Merati, Leonardo Bianconi, Luisa Borini. E questo lavoro dedicato alla Rimini della Riviera Romagnola, che l'omonimo romanzo di Pier Vittorio Tondelli cercava di mettere in luce, andare a vedere anche un po' che è rimasto di quella Rimini della Riviera Romagnola degli anni 70, è anche molto intelligente. Io l'ho visto questo spettacolo, invito gli ascoltatori a fare lo stesso. 30 gennaio, 2 febbraio, Teatro Basilica. Segue al Teatro India Officina Prometeo da 30 gennaio al 2 febbraio, attenzione agli orari perché è uno spettacolo per ragazzi, anche questo l'ho visto, Officina Prometeo è un lavoro di Francesco Picciotti che porta sulla scena, nella sua baracca, le sue marionette di ferro e tessuti e materiali vari, e la storia di come furono inventati tutti gli animali, compresa quella strana bestia senza corna o zanne capace di creare cose mirabolanti come enormi città ondulanti di vita e monumenti da lasciare a bocca aperta, cioè gli umani. Quindi Prometeo che ruba il fuoco agli dèi, magari poi lo usa per fare gli umani, chi lo sa. In ogni caso, dal 30 gennaio al 2 febbraio andremo a vedere Officina Prometeo al Teatro India, stesso teatro in cui vedremo il ritorno in scena dopo un bel po' di anni di questo testo di Igor Esposito, scritto 13 anni fa, e con la regia e l'interpretazione di Peppino Mazzotta, ovvero sia Radio Argo, ed è un lavoro, una partitura ribelle che però si lega chiaramente ai materiali classici di riferimento, come appunto nella Elena di Yanis Ritsos, come abbiamo detto prima. Da Troia il fuoco del rogo della città riluce e invalsa fino ad Argo, e quindi il ritorno vittorioso della flotta greca, questo è messo in luce dal racconto di Igor Esposito, anche per parlare di ciò che resta proprio dopo una guerra, quando si torna in patria e tutto sembra lontano, ma poi gli effetti di quanto fatto continuano a emergere e a far battere il loro suono. 29 gennaio, 2 febbraio, Teatro India, Radio Argo con Peppino Mazzotta. Segue l'ultima indicazione, ovvero sia quella che riguarda il Teatro Vascello, perché dal 28 gennaio al 2 febbraio va in scena Il Grande Vuoto di Fabiana Iacozzilli, testo che è stato finalista al premio Ubu e di cui molti hanno parlato molto bene. La drammaturgia è insieme a Linda Dalisi e performer in scena, sono un bel po', insomma, invito appunto anche lì ad andare a vedere, e tentativo di raccontare una grande storia d'amore, quella tra una madre, i suoi figli e un padre che muore, indagando l'ultimo pezzo di strada che una famiglia percorre prima di svanire nel vuoto e affidando alla tragedia forse più cupa del teatro shakespeariano, il Re Lear, il compito di trasformare il dolore attraverso il gioco teatrale. Questo è molto, molto interessante, un lavoro che si interroga sul vuoto, sul senso della memoria, su ciò che resta, anche qui che è qualcosa che continua a ricorrere nel nostro dialogo di oggi. Cosa resta dopo una guerra, cosa resta dopo la memoria, cosa resta dopo la vita, forse il grande vuoto. E questo è tutto. Ciao, buon pomeriggio!